mia mazzo di caffè per aspettare il giorno che tornerò a casa su un kayak agli 8:30 senza aver pranzato. Mi ammazzo di caffè per un lavoro piano che dia giusto il tempo per dormire e lavorare due weekend su tre. Dolce amaro di gran qualità che fa usare tranne me mi potrà dare aiuto se...